Welcome to the Yeme English course. English, no problem with Mr. Brown. Nel avete tuo curriculum sentito? Come metteresti? Inglese? L'inglese conoscenza? Lo sai che la mia è... No, tu buona. Ma figuriamoci. No, buona. Ma lo sa... Io metterei zero. No, no, quella proprio, la diciamo, mia. Del supermercato a New York, se dovessi sostenere un colloquio di lavoro in inglese non sarei in grado. No, no, no. Vabbè. Lo dico, lo ammetto. Ma qualche... noi saremo qua in Italia, facciamo altro. Facciamo insomma. Altro. Nel frattempo facciamo... impariamo bene l'inglese. Sì. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Odio i lunedì. Sono le 11:11. Avete già fatto un sorriso a qualcuno? Ve lo chiedo perché secondo uno studio scientifico pubblicato dal Telegraph, gli impiegati e i lavoratori in genere a lunedì iniziano a sorridere a partire dalle 11:16. Quindi mancano 4 minuti, 5 minuti. E questo è uno dei motivi per cui proprio lunedì è considerato una giornata ad alto rischio di umore nero e irritabilità. Ma se a essere irritabile è il vostro colon, restate perché qualcosa per lui possiamo fare. 800 24 00 24 è quel numero che potete fare voi per avere informazioni. E a proposito di cose da fare, potrebbe essercene al più presto una in meno, o che almeno potrebbe diventare molto più semplice da fare. Ci riferiamo stamattina alla dichiarazione dei redditi. Peraltro stamattina molti giornali riportano come novembre sia il mese dell'intasamento fiscale, quindi grandi grattacapi per contribuenti e commercialisti. Noi parliamo però del 7:30, la dichiarazione dei redditi semplice per dipendenti e pensionati, online e precompilata, e potrebbe arrivare con questa forma dall'anno prossimo, l'ha confermato alla fine della settimana scorsa il Consiglio dei Ministri. Noi nella seconda parte di Cuore e Denari cercheremo di capirne qualcosa di più. Parlare di sensibilità al glutine. È di questi giorni infatti la pubblicazione dello studio Glutox dell'Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Ospedalieri, AIGO, che ha proprio come obiettivo quello di verificare la reale diffusione della sensibilità al glutine. In un paziente su quattro infatti sembra essere questo alimento a causare disturbi sinora attribuiti alla sindrome del colon irritabile e ad altre alterazioni del funzionamento dell'apparato digerente. Insomma, il colon irritabile potrebbe, sentite un po', tradire una sensibilità al glutine, e noi oggi ne parliamo con il dottor Luca Elli, che è coordinatore dello studio Glutox e responsabile del centro celiachia alla Fondazione Cagranda Milano. Buongiorno dottore, benvenuto. Buongiorno. Benvenuto. Allora, lei deve aiutarci un po' a capire. Innanzitutto il glutine, lo sappiamo, finisce sempre più spesso sul banco degli imputati. Ci sono persone che nei confronti del glutine hanno una vera e propria intolleranza, e questi sono i celiaci. Il loro numero nell'ultimo quarto di secolo è aumentato di 5 volte, soprattutto in età pediatrica. Ma lo sappiamo che la celiachia può esordire anche in età adulta, in seguito magari ad un evento stressante che la slatentizza. Ma quali sono i sintomi che ci dovrebbero far pensare alla celiachia? Ma il problema è proprio questo, i sintomi che possono far pensare a una celiachia sono molto variabili, ed è questo probabilmente il problema per cui la celiachia anche in Italia, così come in tutto il resto del mondo, è spesso sottodiagnosticata o sottostimata. Si pensa attualmente che circa un paziente su quattro, un paziente su cinque abbia una corretta diagnosi di celiachia, appunto perché i sintomi sono estremamente variegati. Ci sono sintomi intestinali, quali i più classici sono per esempio la diarrea, il gonfiore, un calo ponderale inspiegato. Ovviamente questo si ha più nel bambino, sì, questi sintomi classici, definiti classici, mentre nell'adulto si hanno sintomi spesso più sfumati, un gonfiore semplice, un qualcosa di aspecifico che non, certo, per forza possa far pensare a una celiachia, se non addirittura unicamente sintomi extraintestinali. E quindi il problema è proprio ne questo. Ne ricordiamo alcuni, dottor Elli, perché tutte le volte che parliamo di, certo, celiachia, Deborah lo sa, ci scrivono a distanza di poco tempo alcuni ascoltatori che dicono proprio sentendo il vostro ospite mi si è accesa un campanellino, ne ho parlato con il medico, l'ho beccata. Quali sono? Allora, i sintomi più comuni sono i sintomi gastrointestinali, sì, quindi un po' di diarrea, alterazioni dell'alveo. I sintomi extraintestinali più frequenti sono per esempio l'anemia da carenza di ferro, una lieve anemia da carenza di ferro che non risponde tanto bene alle, sì, terapie per bocca col ferro, o anche la presenza, una semplice astenia, o il soggetto si sente stanco, per esempio. Molto sfumati, ma ci sono anche ad esempio dei sintomi più specifici che riguardano il cavo orale, ad esempio, sì, la presenza di afte che si ripetono e guariscono, certo, no? Certo, e si riattivano, oppure anche le carie, no? Che sono presenti, per cui anche forse il dentista potrebbe quasi fare, non dico diagnosi, ma indirizzare. Certo. È corretto? Il problema, dottore, è proprio questo, che spesso la maggior parte dei celiaci magari non passa neanche dal gastroenterologo, passano per esempio dal dentista perché hanno, come diceva lei giustamente, problemi di afte ricorrenti o carie ricorrenti, eccetera. Quindi molti e diversi specialisti dovrebbero pensare più spesso a questo disturbo. Può essere diagnosticata la celiachia, viene fatta diagnosi con degli esami specifici, vogliamo ricordarli? Certo, la diagnosi di celiachia è abbastanza semplice, si inizia con degli esami del sangue che sono molto specifici, e parlo degli autoanticorpi, quelli gli antitrasglutaminasi ad esempio, i quali poi indirizzano nel paziente adulto verso quello che è invece un po' più odiato, diciamo, dai pazienti, che è la biopsia del piccolo intestino e la gastroscopia. Allora, noi oggi vogliamo parlare di una relazione molto particolare. Sembra che la sensibilità al glutine, che è una lontana cugina, possiamo definirla così, della celiachia, possa essere una delle cause del colon irritabile, disturbo che affligge molti italiani. Un tempo le persone che soffrivano di sensibilità al glutine venivano dette false celiaci, invece adesso è un'entità clinica ben precisa. Che cosa ne sappiamo? Ma sì, appunto, una volta venivano definiti falsi celiaci, adesso hanno una dignità maggiore, diciamo, vengono definiti come sensibili al glutine. Cosa sappiamo? Adesso siamo un po' agli albori di questo campo, cioè dei disordini glutine correlati. Il problema è che anche questo disturbo riconosce dei sintomi molto specifici, come ha detto lei, gli sintomi del colon irritabile, cioè sintomi gastrointestinali molto sfumati, magari non eccessivamente severi, ma ricorrenti nel tempo, e che in effetti, diciamo, danno molto fastidio fino a, diciamo, impoverire la qualità di vita dei soggetti. Quello che si è visto è che appunto dietro questi sintomi può, in una percentuale di questi pazienti, nascondersi una sensibilità al glutine. Quindi dolori addominali, compreso il bruciore un po', no? La nausea, la diarrea, anche dei disturbi cutanei, dottore, possiamo inserire nei segnali, nei sintomi di questa sensibilità al glutine? Esattamente. Come nella celiachia, ci sono dei sintomi gastrointestinali che nell'adulto prevalentemente sono molto specifici, ma anche tutta una serie di sintomi extraintestinali, tra cui, come ha detto lei, quelli dermatologici sono molto frequenti. Allora, se vi siete riconosciuti in questi sintomi, se il vostro colon è irritabile, insomma un brutto carattere, 800240024, raccontateci, anche se siete celiaci, se avete sviluppato invece o pensate di aver sviluppato una sensibilità nei confronti del glutine, e come lo avete scoperto. Ma dottorelli, la sensibilità al glutine è una condizione a vita come la celiachia, oppure si può guarire? Si può rientrare, come dire? Questo non si sa ancora con precisione. La celiachia, appunto, una volta che il meccanismo, diciamo, verso il glutine si è instaurato, dura tutta la vita ed è di fatto una malattia cronica. Per quanto riguarda invece la sensibilità al glutine, questo non si sa ancora bene. Quello che si pensa è che sia un disturbo, appunto, simile all'intestino irritabile, alla sindrome dell'intestino irritabile, cioè una sindrome cronica che però abbia un andamento ricorrente, possa rimanere quiescente per diverso tempo per poi ripresentarsi e così via. Dottorelli, ma si nasce o si diventa sensibili al glutine? Bella domanda, no? La donna di denari. Non ho mica chiesto quanto costano gli esami. Non si sa veramente. Quello che si sa, per esempio, per la celiachia è che si nasce con una certa predisposizione genetica, e poi anche lì, avendo la predisposizione, la maggior parte dei soggetti non sviluppa una celiachia, però una piccola percentuale sì. Per quanto riguarda la sensibilità al glutine, siamo veramente in alto mare da questo punto di vista, certo. Non lo sappiamo. Lei dice una piccola percentuale di popolazione poi sviluppa, certo, la celiachia. In realtà ci sembrano che ce ne siano ormai così tanti attorno a noi di celiaci, mi sbaglio, Nicoletta? Perché, anch'io ho queste impressioni, infatti sono aumentate, è aumentato il numero dei celiaci, e siete riusciti anche a fare delle stime sulle persone che soffrono, che sono sensibili al glutine, e sono una bella fetta, no? Sono una bella fetta, allora bisogna un attimino distinguere, appunto, quello che noi chiamiamo celiachia è circa una prevalenza di un soggetto su 100, su 150 in Italia, o comunque nel mondo occidentale dove sono stati fatti gli studi. Per quanto riguarda la sensibilità al glutine, ci sono delle stime che dicono che circa dal 3 al 5% della popolazione può avere questo tipo di sensibilità. Ci sono alcuni dati che adesso orientano verso questa prevalenza, e quindi diciamo 2-3 volte in più della celiachia. Però esami specifici al momento non ce ne sono. No, al momento. Allora, però voi avete fatto uno studio, ce lo racconta, perché la cosa vi ha intrigato un po' e avete deciso, ma andiamo un po' a vedere che cosa succede, che cosa avete fatto? Allora, siccome appunto come dicevate voi, non c'è un esame come per la celiachia che ci dica che quel paziente ha una sensibilità al glutine, attualmente di fatto la diagnosi si basa su un'esclusione di tutte quelle della celiachia, così come dell'allergia al glutine, cioè di altre patologie. Il soggetto poi riferisce un benessere alla dieta priva di glutine e di fatto si può definire sensibile al glutine. Questo non toglie che cosa? Tutta quella ampia percentuale di soggetti che possono avere il cosiddetto effetto placebo, cioè migliorano perché è cambiato qualcosa senza che quello sia realmente il problema vero. In questo studio cosa abbiamo fatto? Abbiamo in questi pazienti... È straordinario l'effetto placebo, scusi la interrompo. Infatti lo stanno studiando, guarda che l'effetto placebo è una cosa straordinaria. Uno dice effetto placebo come per dire niente, no. Invece è una cosa straordinaria, no? Certo. Che il nostro... Vabbè, scusi, è benvenuta, perché io sono molto affascinata dall'effetto placebo. Come dire, possiamo fare una puntata, quindi adesso mi invento qualche legame economico da associare, senz'altro. No, ma è vero, è molto interessante. In questi soggetti, per esempio, l'effetto placebo può migliorare fino al 40-50%, quindi a prevalenze molto alte questo tipo di effetto. A volte funziona di più delle terapie, esattamente. Quindi... E proprio per evitare questo tipo di errore, cioè incappiamo in un effetto placebo, cosa abbiamo fatto? In questo tipo di soggetti abbiamo dato il glutine di nascosto, diciamo, senza che loro lo sapessero, dentro delle capsule in cui poteva esserci o un placebo o appunto il glutine, e abbiamo visto quali di questi rispondevano, cioè avevano una ricomparsa dei sintomi che riferivano quando prendevano il glutine di nascosto, e quindi questo toglie, diciamo, o comunque limita l'effetto placebo. 800 24 00 24, direi di cominciare non a sentire... solo per parlare dell'effetto placebo, se no, anche no. Voi ne parleremo, ma anche per capire se avete in qualche modo modificato la vostra dieta oppure siete stati un po' condizionati da questa moda, perché diciamolo, Deborah, esatto, è proprio una moda, e peraltro molti attori come dire la seguono, direi anche un pochino impropriamente, perché come dire hanno stabilito che l'assenza di glutine o di alimenti con glutine nella loro alimentazione li rimette in forma, e quindi seguono un po' questa direzione, e ci sono persone che, avendo qualche disturbo, pensano di tagliare proprio la testa al toro, decidendo che del glutine si possa fare a meno. C'è questa dieta gluten free che è molto di moda fra le star oltreoceano, a quanto pare la seguono Gwyneth Paltrow, Victoria Beckham e Russell Crowe, solo per citare alcuni degli attori più famosi, e sono stati proprio attratti dalla dieta senza glutine perché, a sentire loro, farebbe dimagrire e li avrebbe fatti diventare più tonici, come se non avessero altre modalità questi signori qua per stare in forma tra massaggi e belli vita erano serena. Già belli, quindi ecco. In realtà Gwyneth Paltrow poi già segue tutta una sua filosofia di vita alimentare, so che prepara insomma tutti gli alimenti per i suoi bambini, ma adesso anche dottore, dobbiamo per dimagrire qualche chilo? No, assolutamente. La dieta priva di glutine non è una dieta ipocalorica, non è data come una dieta che il glutine non fa ingrassare. Non fa ingrassare, ecco. Dipende ovviamente, togliendo il glutine con cosa lo si cambia, come viene variata la dieta in generale, ma di per sé non è una dieta di fatto ipocalorica, non viene data per dimagrire. Il problema esatto è proprio questo, che ha tolto anche forse un po' di appeal scientifico, diciamo, all'argomento, nel senso che questa sovraesposizione di personaggi anche famosi che hanno il loro impatto sulla popolazione eccetera, nel consigliare, nell'invitare a una dieta priva di glutine, ha, diciamo, un po', come dire, fermato la comunità scientifica etichettarlo come argomento modaiolo. E questo ha tolto. Insomma, non vi volete mescolare, ho capito, no, siete un po'. Non si vogliono mescolare, vero? No, non è vero. No. 800 24 00 24, mescolatevi con noi invece per raccontarci se avete fatto dei cambiamenti nella vostra dieta, magari per vedere se alcuni sintomi gastrointestinali che vi davano fastidio potevano, non so, ridursi o migliorare. Stefania ci chiama da Bologna, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto faccio i complimenti a voi e alla trasmissione. Che brava, è squisita. Brava, Stefania. E anche con o senza glutine? Sottoporre il mio problema, perché io da anni soffrivo di dolori addominali e mi era venuto in mente appunto la celiachia, e ho fatto in autonomia i test ematici che erano risultati negativi. Dopodiché ho deciso di fare una dieta senza glutine e onestamente mi è cambiata completamente la vita. Quindi io adesso sto benissimo. Il mio quesito è, non volendo fare la biopsia, che cosa posso fare a questo punto? Perché lo diceva prima lei, dottore, che non è tanto amato ovviamente questo esame. È molto invasivo? Beh, la biopsia del duodeno viene fatta attraverso una gastroscopia, quindi sì, è abbastanza invasivo, però anche solitamente anche ben tollerato, diciamo, nell'immaginario collettivo. Però per avere l'esenzione di qua si deve passare. Attualmente sì, in Italia, per avere l'esenzione bisogna avere il referto della biopsia duodenale. Sì, certo. Per quanto riguarda appunto la domanda della signora, gli esami del sangue comunque hanno un'ottima efficacia, quindi se a fronte di un esame del sangue negativo, solitamente, se non vi sono dei sintomi particolarmente severi o qualcosa che possa spingere a fare un qualcosa in più, è sufficiente l'esame del sangue. Quindi assolutamente, se la signora ha fatto l'esame di sangue correttamente vuol dire soprattutto durante un periodo di dieta libera, perché qual è il problema che spesso noi affrontiamo del fai da te? Che affrontiamo persone che magari si sono già messe a dieta priva di glutine, e questo impedisce di fatto che cosa? Una diagnosi, per esempio, di una malattia celiaca, perché con la dieta l'esame del sangue, cioè gli anticorpi, regrediscono, cioè tornano ai valori di normalità, e quindi questo è un problema. Quindi se gli esami del sangue vengono fatti nella maniera corretta e nel periodo giusto, sono sufficientemente efficaci. Come diceva appunto la signora, si rientra in quei possibili soggetti che possono avere questa forma, perché appunto riferisce che mettendosi a dieta in effetti ha avuto un importante miglioramento della propria sintomatologia. Un'ascoltatrice ci scrive al 349-238-6666, come sempre tantissimi messaggi da parte vostra. Ho scoperto di essere celiaca a 45 anni, il massimo del gonfiore lo raggiungevo quando mangiavo pizza, birra e caffè d'orzo, un trio di elementi davvero devastante per chi ha questi problemi naturalmente. Mi sono sottoposta degli esami in quanto un giorno mi sono alzata con una specie di dermatite all'estremità degli arti. Sì, anche la celiachia, come appunto la sensibilità al glutine, può avere questo tipo di sintomi sia intestinali che extraintestinali. Intestinale appunto il gonfiore, eccetera, extraintestinali una forma di dermatopatia magari non ben identificata anche dal dermatologo. Appunto poi facendo gli esami, spesso, come spesso accade per la celiachia, risultano positivi. All'estremità degli arti che cosa vuol dire? Piedi e mani? Piedi e mani. Che tipo di... magari non voleva dire piedi. Piedini, no, piedoni. No. Stavo cercando di immaginare che tipo di effetto appunto. A meno che non sia una sirena. E allora, e con questa e invece volevo dirvi che Fabio, che lavora in un molino, ci scrive che nelle farine talvolta si aggiunge glutine extra su richiesta di alcuni clienti che vogliono un prodotto più forte per la lavorazione. Avremo a Gabriella dalla provincia di Lecco, chissà se ci accompagna a sentire i mercati. Glielo possiamo chiedere, magari li lancia lei. Gabriella, sì. Buongiorno. Buongiorno. Ci faccia un po' l'annunciatrice delle borse stamattina. Mon Dieu, ed ecco a voi la situazione delle borse. Cuore e denari. Riuscire a inviare a tutti i dipendenti pubblici e ai pensionati direttamente a casa, magari attraverso uno strumento di tecnologia semplice, visto che il Papa ha detto che internet è un dono di Dio, bene, possiamo smetterlo di considerare il nostro ostacolo o un problema, la dichiarazione dei redditi precompilata. La dichiarazione dei redditi precompilata è sempre stata uno dei cavalli di battaglia di Matteo Renzi. A quanto pare il 730 online è già pronto, arriverà l'anno prossimo per dipendenti e pensionati. Il Consiglio dei Ministri proprio giovedì scorso ha dato il via libera definitivo al provvedimento sulle semplificazioni che naturalmente dà l'ok a tutta una serie di altri provvedimenti. Noi tra poco vi spieghiamo cosa cambierà nel nostro rapporto con il fisco, come funzioneranno queste novità. Intanto voi iniziate a prenotarvi all'800 24 00 24. Quali sono state le principali difficoltà, gli imprevisti, gli errori che avete dovuto pagare di tasca vostra negli anni passati nella compilazione della dichiarazione dei redditi? Raccontateceli, così capiremo insieme se con il nuovo sistema sarebbero stati evitati più facilmente, e misureremo insieme quanto una novità come questa potrà semplificarci la vita. Cominciate a chiamarci all'800 24 00 24, a scriverci al 349 238 6666, o su Facebook o su Twitter. Perché tutto cambierà, cambierà per ogni vita che nasce, cambierà. Allora cambia il 7:30 e cambia anche la diagnosi del colon irritabile. Secondo lo studio dell'Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Ospedalieri, il colon irritabile potrebbe tradire una sensibilità al glutine. Ne stiamo parlando con il dottor Luca Elli, e voi ci state chiedendo di segnalarvi gli alimenti che contengono glutine. Potete andarli a leggere collegandovi con il sito www.celiachia.it, ma naturalmente anche nei centri di celiachia dei vari ospedali, tra cui quello della Cagranda dove lavora il dottor Elli. Naturalmente potete trovare tutte le informazioni. Noi oggi però vogliamo concentrarci sulla sensibilità al glutine, che potrebbe essere uno dei fattori scatenanti che sostengono un po' questa infiammazione, questa irritazione del nostro colon. E tra poco parleremo anche di una dieta che sembra, vero dottor Elli, un po' una novità, una dieta per il colon irritabile, per cui se il vostro colon ha un caratteraccio, chiamateci 800 24 00 24, vi parleremo di una dieta che è stata proprio ideata per per aiutare le persone che hanno questo problema a scegliere gli alimenti in base a criteri molto particolari. Vogliamo anticipare come si chiama? Esattamente, è la dieta a basso contenuto anti-FODMAP, cioè quegli elementi che possono fermentare nel nostro intestino, quindi creare un po' di gas e dare quei disturbi tipici dell'intestino irritabile. In linea con noi abbiamo il piacere di avere la dottoressa Leda Roncoroni, nutrizionista al Centro Prevenzione e Diagnosi della Malattia Celiaca al Cagranda Policlinico di Milano. Buongiorno dottoressa Roncoroni. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ci dirà tutto e di più di questa nuova dieta, ma noi abbiamo Gabriella che ci stava aspettando dalla provincia di Lecco. Certo, non può certo limitarsi a fare solo l'annunciatrice dei mercati. Gabriella, benvenuta. Sì, buongiorno, grazie per avermi chiamato. Già state rispondendo alla mia domanda, perché io ho superato i 60 anni, sono soggetto allergico, ho un controllo presso l'allergologia. La dottoressa, visto che mi sentiva parlare con difficoltà, ha notato appunto che avevo addirittura 3-4 afte in bocca. Sono ricorrenti, ho fatto il test con le analisi del sangue per quanto riguarda la celiachia, il risultato è stato negativo. Sì. Io però a volte ho ancora questi disturbi intestinali, anche se diciamo il mal di pancia è passato, però le afte ricompaiono. La dottoressa mi ha detto di limitare al massimo l'uso appunto di prodotti con glutine, lo sto facendo. È andata meglio? Però è andata un po' meglio, però la situazione non mi è ancora completamente chiara. C'è qualche altro test al quale io posso sottopormi, e quale sarebbe, se c'è? per avere una Gabriella vuole sapere esattamente che cos'ha. Ad esempio, la sensibilità al glutine non si riesce a diagnosticare con precisione, la limitazione del glutine che prova che insomma siamo un po' sensibili a lui. La limitazione è al limite appunto la stimolazione in cieco, cioè senza sapere che cosa uno sta assumendo. Quello che diceva la signora però è molto interessante, nel senso che parlava anche di allergie. Spesso questo è un fattore in effetti confondente per quanto riguarda la sensibilità al glutine o i disturbi gastrointestinali, nel senso che alcuni soggetti possono anche essere allergici al glutine o anche a qualche altro elemento. Quindi diciamo è un fattore che si innesta ed è spesso confondente. Per quanto riguarda le afte, è vero che le afte sono spesso un segnale della celiachia, però non tutte le afte sono legate alla celiachia, quindi possono avere anche altri tipi di cause in effetti. Dottoressa Roncoroni, abbiamo anticipato che avremmo parlato di una dieta che particolarmente indicata e suggerita alle persone che soffrono di colon irritabile. Sì, esattamente. Diciamo così che negli ultimi anni la dieta FODMAP si prefigge di curare appunto con l'alimentazione l'IBS, che è appunto la sindrome del colon irritabile. L'acronimo di FODMAP sta appunto per Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and Polyols. Andiamo più nello specifico, quindi sì. Per quanto riguarda gli oligosaccaridi comprendono fruttani, galattorisaccaridi, disaccaridi lattosio, conosciutissimo, i monosaccaridi e fruttosio, i polioli, sorbitolo, xilitolo, maltitolo, eccetera. Esatto, che sono proprio anche i tipici sostitutivi degli zuccheri. Tradotto in termini molto semplici carrello della spesa? Esatto. Allora, innanzitutto parlando e tornando al glutine, diciamo che nel caso specifico fa parte del gruppo dei fruttani, quindi nel caso appunto di una sindrome del colon irritabile va eliminato in modo tale appunto da cominciare a togliere una delle cause principali. Però FODMAP non significa solo eliminazione di glutine, ma anche eliminazione, come abbiamo detto, di lattosio, quindi latte derivati, quindi in favore ovviamente dei formaggi stagionati, per dire appunto una sostituzione, fruttosio, quindi eliminare quelli che sono ad esempio nelle verdure, asparagi, carciofi, nella frutta, mele, pere, in favore di alimenti Le mele e le pere è dura, però purtroppo contengono fruttosio e fruttani appunto che sono assolutamente da eliminare. Però voglio dire anche una cosa importante, che questo tipo di dieta non è come per la dieta senza glutine, per la celiachia, diciamo così, definitiva, una dieta per tutta la vita. Esatto, di solito appunto il protocollo che si applica è un paio di mesi, uno o due mesi in dieta appunto a basso contenuto di FODMAP e poi la reintroduzione graduale per appunto verificare se c'è stato un recupero della tolleranza con la reintroduzione dei diversi alimenti a step successive incrementanti nelle settimane successive, in modo tale eventualmente all'interno degli stessi FODMAP di verificare effettivamente se ce n'è uno in particolare, in modo tale da non stare a eliminare ovviamente tutto esattamente. Magari nel mio gruppo risulta essere che io ad esempio i fruttani piuttosto che solo il lattosio, piuttosto che solo il fruttosio, e io mi concentro esattamente su quelle, questo quindi, capita molto spesso. Quindi togliamo il glutine, i latte derivati, frutta tra cui pere, mele, ha citato nei vegetali, carciofi, asparagi mi sembra, ma esatto. Mi scusi, per quanto riguarda i dolci, dato che abbiamo sentito fruttosio, allora mi viene in mente ad esempio anche quindi tutti i dolcificanti artificiali di cui noi abbiamo parlato tante volte. La maggior parte degli artificiali potremmo tenere, quello che io poi consiglio un po' sempre ai miei pazienti, quelli più di tipo naturale come può essere la stevia va benissimo, in modo tale a da chi riuscire... piace, Piace? Hai notato la mia faccia? Sì. No, perché ha un gusto un po' particolare. Ha un gusto particolare, però devo dire la verità che piace, almeno nella mia esperienza. Sì, poi all'inizio magari ovvio non è bisogna un farci un classico. Po' la bocca, come sì, si dice. Esatto, esattamente. Un'ultima domanda prima di salutarci, quando solitamente abbiamo un po' la pancia che fa le bizze, ci mettiamo a dieta in bianco, un classico, no? Dai, mangiati un po' di riso in bianco che ti mette a posto, è vero, dottoressa? Possiamo suggerire o dipende dalla cottura, quale riso? Allora, il riso in bianco risulta essere ottimale sia per pazienti con sensibilità al glutine che per il colon irritabile, in quanto ovviamente non contiene glutine, quindi di per sé va da sé che va bene promosso. Anche in questo caso però quando si consuma riso bisogna sempre prendere in considerazione l'esistenza di altre varietà di riso, cioè non ci soffermiamo solo sul riso classico che è il bianco arborio che passando al supermercato prendiamo velocemente e buttiamo nel carrello della spesa. Esistono anche altri tipi di riso, il riso rosso, il riso nero che è il classico riso Venere. Sì, con cui si cucinano comunque ottimi primi piatti. Quindi si può cambiare anche il colore? Sì, del riso. Assolutamente sì. Con qualche vantaggio per la nostra salute in 30 secondi che poi andiamo a sentire le informazioni sul traffico e voglio salutarvi per bene oppure solamente generale... più vivace la nostra con più appeal sulla nostra tavola? Decisamente solo più vivace, bisogna sempre fare attenzione al consumo esclusivo di riso perché è un alimento comunque come noto con un elevato indice glicemico, certo. Quindi contiene amido che è un carboidrato complesso che se non è correttamente bilanciato in una dieta equilibrata può portare anche a un aumento di peso corporeo, quindi a proprio un aumento del peso e che ovviamente a tutti noi non fa piacere ovviamente avere. Allora, noi ringraziamo la dottoressa Roncoroni. Prego. Per essere stata con noi, ci sentiremo presto e anche il dottor Luca Elli, coordinatore dello studio Glutox che ci ha aggiornato, è stato con noi, è stato gentile, carino, chiaro. Grazie. Grazie a voi. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti. Arrivederci. Cuore e denari. Senti Peter, voglio farti una domanda. Una tua ex ragazza ti telefona all'improvviso la vigilia di Natale. Tu che faresti? Ad un tratto hai problemi a trovare una donna? Certo. Lasciala nel passato. Le vecchie fiamme sono come le vecchie dichiarazioni dei redditi. Le metti in fila nell'armadio per 3 anni e poi te ne liberi. E chissà se davvero potremo lasciare nell'armadio dei ricordi le vecchie dichiarazioni dei redditi insieme alle preoccupazioni, complicazioni e a volte imprevisti che portavano. Dal 2015 dovrebbe cambiare radicalmente per moltissimi italiani il rapporto con il fisco. Speriamo noi in meglio naturalmente. Dipendenti e pensionati potranno smettere di fare i conti per il fisco e il fisco dovrebbe iniziare a fare i conti per conto loro, anzi per loro appunto. Per pensionati e dipendenti. È un meccanismo che si inverte, un'inversione che già è avvenuta in tanti paesi europei e la dichiarazione dei redditi ci arriverà già precompilata. A noi spetterà la scelta di confermarla o modificarla. 800 24 00 24, noi siamo qui per raccogliere tutti i vostri dubbi e curiosità su questa novità che è stata confermata proprio da pochissimi giorni dal Consiglio dei Ministri. Raccontateci anche quali sono stati i disguidi, le difficoltà che la compilazione della dichiarazione dei redditi in passato magari vi ha causato, quali gli intoppi e gli imprevisti. E con noi i nostri ospiti naturalmente cercheremo di capire tutti insieme se a quelle complicazioni si potrà finalmente dire addio e se questo nuovo sistema fosse stato già attivato forse non si sarebbero mai verificate. Cristiano Dell'Oste del Sole 24 Ore, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. E buongiorno anche a Paolo Conti, direttore generale del CAF ACLI, benvenuto. Grazie anche a lei. 800 24 00 24 il numero verde per le chiamate dei nostri ascoltatori che vedo già in lizza, quindi molti sono incuriositi da questa opportunità, chiamiamola un po' così. Cristiano, intanto iniziamo definendo la platea degli italiani interessati a questa modifica. Io ho parlato di dipendenti e pensionati, ma sono solo questi, solo tra virgolette, i cittadini che potranno ricevere la dichiarazione dei redditi precompilata, poi chiariremo anche il termine della ricezione perché certo. Purtroppo non ci arriverà a casa direttamente un bel nulla, ma dovremo certo. Attivarci. Ma diciamo che la platea dei soggetti interessati è rappresentata da coloro che abitualmente presentano il 730, per dare un ordine di grandezza facile da comprendere ai nostri ascoltatori, quindi sicuramente i lavoratori dipendenti e i pensionati. Poi in realtà c'è una fetta di dipendenti, lo sappiamo, che per vari motivi presenta il modello unico, quindi insomma diciamo in linea di massima dipendenti e pensionati sono il pubblico di riferimento e sono comunque molti milioni di contribuenti, sono più di metà dei 41 milioni e mezzo di contribuenti, diciamo persone fisiche che abbiamo in Italia. Ovviamente il tema non si può applicare, il tema della precompilata, a tutti gli autonomi, ai professionisti, certo, alle imprese, alle società, perché qui il reddito cambia troppo da un anno all'altro, ci sono troppe variabili da considerare. La dichiarazione precompilata dovrebbe servire nei piani del governo per tutti quei soggetti che hanno una qualche stabilità dei redditi, esatto, no? Che tendono di anno in anno ad avere a non cambiare molto e ad avere un rapporto con un soggetto principale che è il datore, certo, di lavoro, che è la sua fonte di reddito principale e così via. Ecco. Ecco, andiamo allora alle domande già più diffuse che si stanno facendo i nostri ascoltatori. Io direi che pesco subito Adriana da Genova perché mi dà un assist molto buono appunto per la successiva domanda per i nostri ospiti. Adriana, benvenuta. Buongiorno. Io volevo chiedere una precisazione. Mi sembra di aver capito che questo modello precompilato dovrebbe arrivare via internet. Quindi non arrivare, ma essere consultabile, sì, scaricabile da internet. Esatto. Esattamente. Se è così, secondo voi le persone anziane, particolarmente anziane, pensate che siano dotate, certo, di sistema internet e siano in grado di utilizzare questi fantastici nuovi sistemi, o saranno obbligati a doversi iscrivere naturalmente a un CAFO o a un'altra organizzazione dietro pagamento di un certo compenso? Adriana, grazie per può la far marciare i nipoti perché c'è anche un po' questa opzione, farsi dare un aiuto. Un problema che i pensionati, Paolo Conti, faccio intervenire subito lei, che i pensionati già conoscono, no? Perché per la platea appunto dei pensionati questo problema già sussiste da qualche anno per quello che riguarda la loro dichiarazione, diciamo, ecco, che conoscono già. Sì, perché già da un paio d'anni l'INPS per esempio non spedisce più a casa il CUD, che è il modello che raccoglie i dati reddituali dell'anno precedente, e non spedisce più neanche a casa l'OBISEM, che invece è quello che raccoglie i dati del pagamento della pensione dell'anno in corso. È indubbio che la scelta fatta dal governo e dall'INPS è stata quella di non utilizzare modelli cartacei, ma di spingere tantissimo sulla parte dell'informatica. La rete dei CAF è a disposizione in questo caso di non solo dei pensionati, ma di tutte le persone che riterranno di avvalersi di loro per adempiere i loro obblighi fiscali. E io credo, da un punto di vista, la cosa più importante e anche più positiva, che noi riteniamo più positiva nell'ambito di questo, è il fatto che comunque una volta che il pensionato, il lavoratore dipendente si utilizzerà i CAF per adempiere i suoi obblighi, nulla sarà più dovuto dallo stesso soggetto nel caso di contestazioni da parte del fisco, cioè non solo la parte delle sanzioni, ma eventualmente anche le eventuali minori imposte versate. Certo. Cioè, è un po' come andare a fare la dichiarazione dei redditi direttamente alla, esatto, però qui insomma siamo già ad uno, come dire, step successivo. Noi adesso, certo, stiamo intanto cercando di capire come questa documentazione si può reperire, visto che appunto il cartaceo diretto non lo avremo più teoricamente. Allora, ieri sulle Sole 24 Ore proprio un pezzo di Luca De Stefano, Cristiano Dell'Oste, indicava le modalità con cui è possibile scaricare dal sito dell'Agenzia delle Entrate intanto? Sì, certamente, ecco. E diciamo che sarà possibile, insomma, perché, esatto, parliamo di un modello che verrà messo a disposizione da aprile del 2015, quindi questo tanto per evitare gli equivoci, quindi è una cosa che arriverà. Dopodiché il modello sarà scaricabile. Una volta che io me lo sarò scaricato e immaginiamo stampato oppure anche soltanto consultato a video, se riesco a farlo da solo oppure con l'aiuto di un CAFO, di un commercialista o di un altro professionista, allora a quel punto dovrò decidere se la dichiarazione mi va bene così e quindi la accetto, oppure se devo andarla a modificare, perché questo è un po' il punto chiave dell'anno prossimo, perché l'operazione parte nel 2015, ma parte perché con una scelta che può essere anche condivisibile, perché se si continua a rinviare non si parte mai, il governo ha deciso di partire anche se la dichiarazione precompilata non contiene tutti i dati. Di fatto circolano varie stime, però noi possiamo dire con una certa certezza che almeno il 70% dei contribuenti dovrà andarla a integrare questa, esatto, dichiarazione. Esatto, no, perché stavo pensando alla relazione che si stabilirà con il CUD, la certificazione unica appunto dei redditi, che già tutti i lavoratori dipendenti e appunto pensionati ricevono, ma a partire dalla fine di febbraio. La dichiarazione dei redditi che sarà disponibile a partire da aprile sarà invece quel documento che vedrà indicate spese che molti avranno per esempio appunto sostenuto, non so, per una ristrutturazione, e che andrà a, naturalmente a beneficio del contribuente, ecco, per poter ottenere dei rimborsi eccetera. Quindi quelle, ci saranno, ecco, quelle nel 2015 non ci saranno ancora, diciamo che nel 2015, allora che differenza avrà quel documento, ecco, rispetto al CUD? Bravissima, questo è un punto chiave. Nel 2015 quello che arriverà, adesso magari Conti che è più tecnico inorridisce a sentirmelo dire, sarà una specie di super CUD, io direi, cioè sarà un CUD dentro a cui ci saranno alcune informazioni in vedo più. Già un titolo del Sole 24 Ore, Nicoletta, da di marzo prossimo arriva il super CUD. Ad esempio, no, pensiamo per esempio ci sarà la detrazione sugli interessi passivi del mutuo. Quella ci sarà perché le banche trasmettono il dato alle entrate che lo riversano dentro. Quindi quali altri certamente ci potranno essere? Però sulle ristrutturazioni perché non c'è? Sono dati che arrivano già allo Stato? Sono dati che dovranno essere inseriti, perché il primo anno che io li inserisco sono io a conoscerli, non è il sistema fiscale che li conosce, non è però non se è faccio l'entrate. Il bonifico parlante attraverso la banca non trasferisce questo dato? Sì, la banca lo trasferisce, però poi bisogna vedere se spetta o meno, insomma lì ci si può ragionare. Le spese sanitarie poi... ci chiede cosa, insomma tante domande le spese molte sanitarie... risposte. Suspense, va bene. A dopo. Cuore e denari. Mi sono informato, c'è un treno che parte alle 7:40. Non hai molto tempo, il traffico è lento nell'ora di punta. Beh, se vi siete informati o quantomeno se avete ascoltato la prima parte di Cuore e Denari, saprete che non è di 7:40 che stiamo parlando oggi, ma di 7:30. Giochiamo con questa canzone per tornare nell'argomento di oggi, la dichiarazione dei redditi precompilata che il fisco ci metterà a disposizione a partire dall'anno prossimo. Quindi avremmo voluto dire che il fisco ci invierà, abbiamo capito nella prima parte del programma che invece dobbiamo anche in questo caso attivarci. Noi. Esatto. Con noi ci sono sempre Cristiano dell'Oste del Sole 24 Ore, Paolo Conti, direttore generale del CAF ACLI. Sono tantissime le sollecitazioni da parte vostra che ci stanno arrivando all'800 24 00 24. Raccontateci anche se volete le vostre disavventure passate con il fisco, noi capiremo se si sarebbero potute evitare con un sistema come quello che inizierà il suo rodaggio fra pochi mesi. In realtà dalle prime informazioni che abbiamo avuto non sarà tutto così semplice. Peraltro Paolo Conti, andando all'ACLI e alla modalità con cui voi vi attiverete appunto per mettervi a disposizione dei contribuenti, sarà necessario credo un periodo comunque di rodaggio per il nuovo sistema, credo che durerà un paio di anni almeno, giusto? Sì, da quello che prevede la norma occorreranno un po' di anni prima che tutte le informazioni che il fisco può reperire siano a disposizione direttamente del sistema, un po' come quello che diceva lei prima, per esempio i bonifici delle ristrutturazioni potrebbero essere già conosciuti proprio per via del passaggio con le banche, esatto. E si tratta di capire se poi il bonifico è stato fatto correttamente o meno, perché potrebbe anche capitare che di fare una causale di ristrutturazione che però non rientra. Ma ammettendo che sia quella regolare e semplice, passando dall'intermediario finanziario, in realtà lo Stato questa informazione ce l'ha già, per cui potrebbe già inserirla. Andiamo invece alla questione delle spese sanitarie, che sollevate mi sta molto a cuore, esatto, perché anche la donna di cuore fa i conti. Ma guarda Cristiano, che sei in buona compagnia, perché a quanti contribuenti interessa questa faccenda delle spese sanitarie, Cristiano? Ma diciamo che è presente mediamente nel 70% delle dichiarazioni dei redditi, la detrazione del 19%, quella per intenderci sia sulle visite ma soprattutto sugli scontrini d'acquisto dei farmaci. È il motivo per cui la farmacia ci rilascia generalmente uno scontrino dove è indicato il nostro codice fiscale. Noi raccomandiamo anche spesso di fare la fotocopia di questo documento perché essendo carta chimica si scolora, quindi stiamo attenti. Sì, tra l'altro dobbiamo dire una cosa importante, adesso poi magari l'approfondiamo, però intanto il messaggio da dare è: non buttate via gli scontrini relativi a quest'anno, relativi al 2014. Non buttateli via in assoluto per qualche anno. Certo, e continuate a raccoglierli da qui a fine anno, perché questa è un'informazione che nella prossima dichiarazione dei redditi, quella che sarà a disposizione precompilata dal 15 di aprile, non ci sarà, perché l'attivazione di un percorso che consenta poi allo Stato di conoscere le spese sanitarie e di inserirle nella dichiarazione partirà dal 2016, almeno questo è l'attuale cronoprogramma. Lo ricordava anche Luca De Stefani appunto nel pezzo apparso ieri sul Sole 24 Ore che ho ricordato prima. Mi piace il cronoprogramma, hai sentito? Esatto. Invece volevo sapere da Conti se gli piace, se gradisce questa definizione di super CUD, come ha richiamato prima Cristiano Dell'Oste, perché effettivamente quello che abbiamo capito fino ad ora, da aprile dell'anno prossimo non sarà niente che più di questo. Sì, per l'anno prossimo non sarà molto di più, però è anche vero che si è partiti, cioè era necessario partire, a mio parere. Quindi voi applaudite, diciamo, a questa novità, non vi sottrae un po' di lavoro? Ma guardi, io l'applaudo assolutamente, cioè tutti quelli che sono i sistemi che riescono a fare tribolare un po' meno la gente nei confronti col rapporto col fisco, io sono assolutamente favorevoli. E questo è uno dei sistemi, a mio parere, per certo. Cui sono assolutamente favorevole. Allora, andiamo ancora alle domande degli ascoltatori, sì. all'800240024. Abbiamo Vincenzo, ci chiama da Cesena. Benvenuto Vincenzo. Benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Vi sento sempre e vi faccio tanti auguri. Grazie. Bravo. Auguri grazie. Anche a lei, Vincenzo. Allora, ci dica. Io sono un pensionato. Sì. Possiedo solo redditi da pensione, sì. E un appartamento al 50%. Sì. Sono quindi esonerato dalla presentazione del modello 730. Sì. Non ho spese da detrarre perché mi pago tutto. Mm. Mi arriverà il 730 precompilato? E se sì, cosa dovrò fare? Allora Vincenzo, dunque, come succede per il CUD, che lui reperisce attraverso il portale dell'INPS con il PIN dispositivo. Sì, lo chiedo all'INPS. No, il 730 no in questo caso, Cristiano. No, in questo caso no, nel senso che a lui verrà messo a disposizione un 730 precompilato, come agli altri milioni di dipendenti e pensionati. Gli viene messo a disposizione. Potrà continuare a non avere adempimenti a suo carico. Possiamo sentire anche Conti, magari, perché questo è un caso che loro gestiranno in molte situazioni a livello operativo. Certo, ma anche chi mediamente non la compila la dichiarazione dei redditi e rimane al CUD, Conti, e in questo caso il nostro ascoltatore può star tranquillo. Sì, si può stare tranquillo, non deve fare assolutamente nulla. E dal prossimo anno ci sarà comunque a disposizione una sorta di 730 precompilato anche per questo signore, che però non verrà logicamente utilizzato perché appunto lui non ha nessun certo. tipo di obbligo. È una platea di circa 7 milioni di italiani. Questa no, è un po' anche tra l'altro come il CUD, no? Che la nostra certificazione dei redditi non è indispensabile per chi non ne ha necessità di usarlo, appunto scaricarlo per forza e stamparlo, avere il documento cartaceo, Cristiano, perché questo è anche un po' l'angoscia di tutti quei pensionati che naturalmente, non avendoselo più visto recapitare a casa, dovevano scaricarselo tramite internet. Se il documento non ti serve per fare un'eventuale dichiarazione dei redditi, non è fondamentale appunto averne la copia cartacea? Ah, sicuramente, se è a disposizione online. Il punto è che poi, come dicevi giustamente tu, se io non ho dimestichezza con internet, magari avere il pezzo di carta in un cassetto mi dà più serenità. Esatto. Allora, come fanno le banche a sapere, chiede un ascoltatore, se gli interessi pagati in banca sono per la prima casa e quindi effettivamente detraibili? Paolo Conti. Perché sugli interessi per la prima casa si paga un'imposta sostitutiva dello 0,2% all'atto dell'acquisto, per cui la banca sa se è una attività prima casa o meno, non sa però se si è presa la residenza lì, per cui in realtà bisognerebbe incrociare anche il dato dell'anagrafe. Per quanto riguarda i mutui, quest'anno ci saranno infatti solo le spese relative a quegli interessi già detratti negli anni precedenti, per cui dove c'è una certezza, diciamo così. Fatto salvo che poi, se non è più così, perché per esempio il contribuente ha cambiato residenza, dovrà modificare il 730 che gli è certo. arrivato. Allora, quindi, tra l'altro ieri Luca De Stefani, sempre ricordando questo pezzo che era molto chiaro e che è apparso sul sito del Sole 24 Ore, suggeriva di in ogni caso attivarsi con una già prescrizione a fisco online. Che ne pensi, Cristiano? È già il caso, secondo te, quantomeno di avere, almeno provare a vedere come funziona lo strumento telematico dell'Agenzia delle Entrate? Allora, va diciamo meglio portarsi avanti sempre. Sì, non mi sembra che ci sia particolare urgenza, perché parliamo comunque di una cosa che si farà tra circa 6 mesi. Però sicuramente, se un cittadino vuol cominciare a prendere confidenza con Fisco Online, lo può fare. Non dimentichiamo che oggi su Fisco Online ci sono già tanti altri servizi. Per esempio, sono caricate tutte le dichiarazioni dei redditi degli anni passati, quindi ci sono tante informazioni a disposizione, quindi è un canale utile che se qualcuno vuole iniziare a usare male non fa, anche perché appunto adesso manca ancora qualche mese, quindi non c'è particolare motivo di fretta, però per l'attivazione bisogna poi, come dire, preiscriversi online e farsi mandare a casa la seconda parte del PIN per posta, quindi non è proprio come istantaneo. Funziona per il PIN dispositivo dell'INPS, naturalmente la modalità, quindi è diciamo simile. Non è una cosa che richiede mesi, però se ci si porta avanti male non fa. Chi bussa alla nostra porta? Bussa Gianfranco, ci chiama dalla provincia di Bergamo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Ci dica, lei è contento di questa novità? Ma io sarei anche contento, perché le novità, se vengono e portano del bene, fanno bene. Ma sono rimasto un po' stupito del fatto che l'Agenzia delle Entrate, sì, per avere delle informazioni che in teoria dovrebbe già avere, gli ci vogliono 2 anni, non riesco a capire questa cosa. Sentiamo un po', allora conti, appunto il governo ha indicato almeno in 2 anni il tempo necessario per il rodaggio a dovere del sistema, arriveranno, un po' come è successo per i test di medicina, stavo guardando stamattina, un super sistema che ha avuto degli errori materiali, e quindi figuriamoci anche se con questa novità della dichiarazione dei redditi online o precompilata, che dovrebbe arrivare appunto, essere già messa a nostra disposizione, figuriamoci se non troviamo degli errori. Perché sono necessari questi mesi, conti? Perché non è ancora chiuso il circuito con tutti i soggetti esterni che dovranno partecipare a trasferire i dati. L'esempio, quanti sono? Quali sono, per esempio? Ecco. Per esempio sono tutte le ASL e tutta la rete delle farmacie, che è il progetto più grande, che si chiuderà con il nuovo codice fiscale, che farà anche da tessera sanitaria e sarà lo strumento che dovremo usare tutte le volte che andremo a fare una visita medica o comprare un farmaco in farmacia. Perché tra l'altro noi qua in Lombardia ce l'abbiamo già, in altre regioni d'Italia ancora questo servizio non c'è, cioè la tessera unica. La tessera unica ancora non c'è in tutte le regioni, per cui proprio in Lombardia l'avevate come strumento sperimentale, e verrà esteso a tutti per il 2016, sì. Per cui con le dichiarazioni 2016 dovremmo trovare già anche le spese sanitarie. Credo anche che le farmacie si dovranno dotare di strumentazione nuova, perché non so se il POS, cioè la trasmissione dei dati diretta al fisco. Dovrebbe funzionare tutto attraverso il circuito ATM, quello dei POS, come diceva lei prima, che diventa uno strumento obbligatorio oramai in tutti gli esercizi commerciali, per cui attraverso questa obbligatorietà del POS dovrebbe essere possibile anche il passaggio in tempo reale dell'informazione del farmaco e della spesa effettuata. Certo. Diciamo che però un po' lo è. Forse psicologico. Però. Ha ragione Conti, se però ricordiamo a quante polemiche ci sono state per l'installazione del POS obbligatorio per i professionisti, Cristiano Dell'Oste, figuriamoci. Abbiamo fatto una puntatona. Sì, però qui bisogna un pochino capirsi, perché se si vuole che le spese siano in qualche modo conosciute dallo Stato, bisogna che siano tracciabili. Ecco. Se lavoriamo con il contante, la ricevuta cartacea, non c'è sistema informatico, Cristiano, che possa sapere nulla. Tu lo sai nulla. Quante volte abbiamo fatto queste battaglie. Certamente, con tante contestazioni addosso, come se noi arrivasse sistema, chissà che cosa. No, chiaro, ma per carità, il sistema delle farmacie insomma dovrebbe riuscire ad adeguarsi, magari la cosa potrebbe essere più complicata per il medico che visita nel suo studio al pomeriggio, e lì dovrà in qualche modo adattarsi. Per esempio la maggior parte dei dentisti già ha il POS, per dire, quindi bisognerà un po' capire, però certamente se la spesa non è tracciata non può finire in dichiarazione precompilata. Quindi diciamo l'ultimo dei nostri problemi è quello della dichiarazione precompilata. Sentiamo anche Valeria da Cagliari. Sì, buongiorno Valeria, benvenuta. Buongiorno, io volevo chiedere una cosa. Io sono rimasta disoccupata a dicembre, quindi quest'anno purtroppo ho preso l'indennità di disoccupazione. Sì. E contestualmente avevo il mio piccolo divano affittato per i primi 8 mesi dell'anno. Volevo chiedere se in questo caso, visto che sono 2 cose regolarmente registrate e ufficiali, se anch'io troverò flusso online. Allora, Conti, secondo lei indennità di disoccupazione, credo di sì, quantomeno che il fisco chiacchieri con l'INPS, speriamo che almeno questo sia un rapporto già a posto. Per quello che riguarda invece l'affitto che percepisce la nostra ascoltatrice. Allora, per quanto riguarda la parte dei datori di lavoro e di conseguenza la disoccupazione piuttosto che qualsiasi altro reddito da lavoro dipendente saranno già inseriti nel corso del 2015. Non sarà così ancora per quanto riguarda la parte relativa ai redditi percepiti, per esempio, dalle locazioni immobiliari, che dovrebbero arrivare l'anno successivo. Ecco qua, quindi per la nostra ascoltatrice, insomma, dovrà fare una dichiarazione dei redditi, diciamo, regolare. Ammettendo di iscriverci appunto a Fisco Online, quindi al portale dell'Agenzia delle Entrate, vogliamo ad aprile scaricare il nostro 730 precompilato. Se ci sono delle informazioni che non ci tornano, qual è lo step successivo che si deve seguire, Conti? Lì in ogni caso o ad un CAF, ad un professionista, ci dobbiamo andare comunque, ad un commercialista, giusto? Potremmo anche, ho sentito un po' di titubanza, potremmo anche fare noi una modifica, vengono lasciate? Certo, assolutamente, ma anche questa è una novità importante. Io credo che sia importante per quei contribuenti che sono in grado di intrattenere il rapporto con il fisco direttamente, vuoi perché hanno le conoscenze informatiche, ma vuoi anche perché hanno le conoscenze normative, di poterlo fare direttamente. Questo credo sia assolutamente positivo. Oggi io non potevo presentare la mia dichiarazione dei redditi se non avvalendomi di un CAF o di un professionista. Domani potrò farla anche direttamente online. Se ne ho le competenze, se ne ho le conoscenze, lo posso fare, per cui posso anche modificarla. La differenza sta proprio in quello che dicevo all'inizio. Se lo faccio da solo, no, il problema è anche è capire se io ho la competenza di capire che è sbagliata, perché c'è anche quelli lì, comunque un controllo a qualcuno, devo farlo fare. Ecco, in questo caso però vede la differenza è, che poi è proprio la più grande modifica di questa norma, è proprio questo, che nel momento stesso in cui io intrattengo direttamente i rapporti con il fisco lo faccio e posso farlo. Se lo faccio fare attraverso un professionista o un CAF, a quel punto il CAF o il professionista rispondono interamente di quello che fanno, comprese le imposte che eventualmente mi hanno fatto pagare in meno, per cui è una sorta di bozzolo in cui si inserisce il contribuente. Un bozzolo in cui si inserisce il contribuente, con questa immagine dal super CUD al bozzolo del contribuente, oggi lasciamo i nostri ascoltatori con queste due immagini che comunque ci danno l'idea di come il tutto avverrà molto gradualmente, per cui è anche un bene che sia così, perché il rodaggio è assolutamente necessario. La domanda di Roberto da Roma che vedo, ho capito in che intoppo si è trovato l'ascoltatore, preferisco che ci scriva, qua parliamo appunto di detrazioni fiscali legate alla ristrutturazione di un immobile, per chi Cristiano ne ha di restituzioni dal fisco da ottenere un importo molto elevato, adesso può ottenerlo appunto non nella modalità degli anni precedenti, certo. Però magari ecco, lasciando in sospeso per gli altri ascoltatori questa questione di Roberto, gli rispondiamo magari in privato. Roberto ci scriva in 5 secondi, Conti, cosa è necessario che il contribuente cominci a fare magari per non arrivare proprio a questa novità del tutto impreparato, a parte leggere il Sole 24 Ore? Che continui a conservare tutta la documentazione 2014 come negli anni passati. Esatto, intanto. Ottimo, intanto, e fatelo per diversi anni che è meglio. Grazie a Paolo Conti del CAF Anclia, Cristiano Dell'Oste. Grazie a voi. Ci ritroveremo senz'altro nei prossimi mesi con molte puntate su questo tema. Assolutamente, noi come sempre ci ritroviamo. Torniamo domani? Torniamo. Domani alle 11, vi aspettiamo, intanto buon pomeriggio. Buona giornata a tutti. Cuore e denari.